Sotto nuvole basse, l'afa opprimente faceva presagire un imminente temporale, mentre moscerini invisibili, voraci e innumerevoli mettevano a dura prova la nostra pazienza. Affamate, aspettammo 3 ore prima che un ragazzetto moccioso ci portasse il riso e gli spiedini di carne ordinati alla locanda. Quel giorno Cristina, abitualmente di umore costante, era insofferente come se fosse la sua prima esperienza in Asia. Perché mai la gente era così sporca, così idiota e le case tanto mal costruite? Ma perché era impossibile lavarsi o trovare un luogo comodo in cui campeggiare? Non sorrise neppure quando le risposi che queste erano le gioie di chi viaggia senza conoscere la lingua del paese. Dividemmo il nostro polveroso riparo con un'altra viaggiatrice, una donna che parlava il russo, nata a Samarcanda ma residente in un villaggio vicino. Per la terza volta aveva tentato di farsi operare di appendicite all'ospedale di Gorgan, ma invano perché l'edificio aveva preso fuoco proprio al momento del suo arrivo. I moscerini flebotomi che ci facevano impazzire non la disturbavano. Vedendo il nostro stato miserevole, ci spiegò di essere immunizzata, poiché quelle piccole furie non apprezzavano il suo sangue tartaro, saturo di vodka fin dall'infanzia. I tetti vicini, su cui erano distese persone che come noi speravano in un ipotetico alito di vento, rassomigliavano a granai semidiroccati. Pareti provvisorie e ostuoie di giunco erano tese qua e là a mo' di paraventi e fra queste vedevamo muoversi lentamente minuscole lampade a olio, simili a pesanti vermi lucenti. Nell'osservare un uomo fumare la sua pipa, doppio per buona parte della notte, pensai che lui almeno non aveva più coscienza del proprio corpo madido di sudore. Sulla miseria di queste povere genti dimenticate in uno sperduto angolo dell'Asia si ergeva imponente la tomba di Qaboos, fino quasi a sfiorare le nubi, immobile, dominando il paese intero, obbligandolo al ricordo. Rammentati di Qaboos, il re, un grande uomo che compì gesta insigni e fu amico dei sapienti. Qaboos che protesse il celebre Avicenna di Bukhara e a cui Al-Biruni dedicò la sua cronologia delle antiche nazioni. Quel re è il simbolo della perfetta ospitalità. Si narra infatti che uno dei principi della casa dei Dailami, perseguitato dai fratelli che a ogni costo volevano la sua rovina, era venuto a rifugiarsi presso di lui. Qaboos rifiutò ricchi compensi, patì la perdita dei propri beni e condivise orgogliosamente l'esilio del suo ospite piuttosto che venir meno alla sua promessa di protezione. Riuscì infine a restituire al principe il potere perduto e si considerò ampiamente ricompensato dalla gratitudine di colui che aveva aiutato con tanta nobile generosità. Altrettanto famosi erano il sapere e la saggezza di Qaboos, tanto che se ne ripetevano le frasi come se si trattasse di massime. Egli d'altronde precorse i tempi in ogni sua opera, ma, scrive Sir John Malcolm in History of Persia, la sua virtù non era di quella specie amata dagli uomini. Il re fu assassinato a Gorgan dai suoi stessi ufficiali, di cui aveva voluto probabilmente limitare gli eccessi. Il cielo era ancora coperto quando l'indomani mattina ci incamminammo verso il terrapieno sul quale si erge la torre, alta 60 metri. Si trattava senza dubbio di quanto restava della rampa costruita in tempi lontani per permettere agli operai di raggiungerne la sommità. La torre era diversa da ogni altro edificio di mia conoscenza. Massiccia, austera, si innalzava solitaria in un mondo deserto e uniforme. Benché costruita in mattoni, aveva la compattezza dei monoliti. 10 spigoli o costoloni a sezione triangolare solcavano, paralleli fino al tetto conico, un solido che altrimenti sarebbe stato perfettamente cilindrico. Su una striscia decorativa che correva tra un'aletta e l'altra era inciso, in caratteri cufici, la seguente frase: «Questa nobile tomba fu edificata per ordine di Shams ul Mali Emir, figlio dell'emiro Qaboos, figlio di Washmgir, mentre era in vita, nell'anno dell'Egira 375». Un'anziana coppia, forse i custodi di quel monumento, viveva in una tenda sull'impalcatura accanto alla torre. In quel momento erano in corso alcuni restauri, ponteggi erano montati lungo tutto l'edificio, cuocere mattoni solidi come gli originali oggi non sarebbe più possibile. Per il tetto correvano nuove tegole che, dovendo incastrarsi perfettamente l'una nell'altra, richiedevano un lavoro di estrema precisione, anche perché erano di dimensioni decrescenti. L'interno della torre era vuoto, ma un tempo il feretro di vetro del recabose era stato fissato in alto, lassù nella cupola, dove una finestrella guardava esattamente verso oriente. Il professor Goddard, nel suo Survey of Persian Art, dice che quel vano finemente decorato era destinato a rimanere aperto, seguendo in questo l'antico costume che voleva la porta della tenda sempre rivolta verso il sole nascente. Cabus aveva sicuramente impartito ordini precisi perché il suo corpo ricevesse i primi raggi del mattino. Sarebbero così spiegati sia l'orientamento della finestra, sia il vetro del sepolcro menzionato da Yannabi. Il successore fece poi portare la bara a livello del suolo. Dirigendoci verso la melanconica pianura, passammo accanto a un grande cammello che ruminava tranquillo, incontro questo non insolito in simili luoghi. Ci sedemmo per terra a rimirare ancora il monumento che da lontano appariva grandioso, indimenticabile, impregnato di un'energia che rischiava di esplodere, favoloso cilindro a pale da cui l'uragano del deserto avrebbe un giorno scatenato le rivoluzioni in un rombo di pietre frantumate, razzo a striature parallele destinato a qualche remoto pianeta. Mi ritornarono alla memoria le torri della vittoria di Ghazni in Afghanistan, una delle quali fu edificata nel 1030 dal sultano Mahmud di Ghazni, fondatore dell'impero che comprendeva tutto l'Indostan settentrionale. Si tratta di costruzioni eleganti, più slanciate e sottili del Gumbad. Ho letto che una discendente di Qaboos partì per l'Oriente e grazie a lei forse nacque l'idea di queste torri. Sua nipote aveva sposato Mahmud, il conquistatore delle Indie. Allora mi stupii di vedere un monumento tanto perfetto isolato nella pianura e come caduto dal cielo 10 secoli prima. Ora so che a quei tempi fioriva un'età dell'oro in questa parte del mondo, malgrado le guerre contro gli invasori selgiuchidi provenienti da nord. Presto Avicenna avrebbe scritto il compendio di ogni conoscenza, mentre Firdusi aveva appena terminato la sua immortale epopea Il Libro dei Re. L'undicesimo secolo sarebbe diventato famoso grazie a Omar Khayyam, al-Hasan ibn al-Sabah, gran maestro di Alamut, e Nizam al-Mulk, insigne ministro dello Shah Malik, capace di organizzare il suo impero con tanta maestria da imporre un medesimo sistema monetario dal Mediterraneo fino al fiume Amu Darya, che ha la sua sorgente nei monti del Pamir. Risale a tale epoca l'incantevole tomba circolare delle 40 fanciulle ad Amgan. Questo splendido monumento ricorda il Cheshma Ayub, un mausoleo che domina le tombe a volte intorno a Bukhara. Alcuni versi scritti da Qaboos, il re poeta, agli albori del X secolo, mi dicono che quell'uomo non poteva essere stato così severo e rigoroso. Pensando a te il mio amore si infiamma e l'essere mio è trafitto da tremiti di passione. Non vi è una sola parte del mio corpo che non dica dell'amore per te. Crederesti che tutte le mie membra siano diventate cuore? In sei si annidano tra la tua chioma di nero corvino, nodo e ricciolo, intreccio e spirale, onda e tirabaci. In sei, come puoi vedere, regnano sul mio cuore tristezza e desiderio e amaro affanno, pena, impazienza e passione. Khorasan. Lanciando la macchina su per il colle a sud di Gorgan, sfuggimmo infine a quel clima da bagno turco che ci aveva sfinite in quei 3 giorni passati nei pressi del Mar Caspio. I nostri corpi non sono fatti per trasudare in continuazione come il sacco di latte cagliato appeso sotto la yurta. Faceva freddo sul colle battuto dal vento. A ovest le creste del massiccio dell'Elburz sfrangiavano le poche nuvole, erranti come vecchi stracci gettati nel cielo. Giunte al termine della nuova strada, che finiva nel nulla, fummo costrette a continuare la discesa per Sharhud in prima. Ben presto incrociammo un cavaliere che galoppava a briglia sciolta verso di noi, curioso di sapere chi mai fossimo. Sotto un cappellone di feltro spuntava il mento prominente dell'ingegnere greco incaricato della costruzione della strada. Tentò di persuaderci a cenare con lui. Si sentiva abbandonato e depresso ed era impaziente di ritornare in paesi come il Congo o l'Abissinia, dove aveva già lavorato in passato. Lungo il pendio della valle si aprivano piccoli crateri. a intervalli irregolari, simili a cicatrici profonde lasciate da qualche grave affezione della pelle. Avevamo già visto molti di questi Kanat nei dintorni di Teheran e ve ne sono altresì nei deserti dell'Iran orientale, dove sono chiamati Karez, così come nel Turkestan, in Afghanistan e nel Baluchistan. E ogni volta la loro vista mi colma di ammirazione. Quando viene individuata una falda d'acqua ai piedi della montagna, anche a 300 metri di profondità, si costruisce un canale sotterraneo per portarla alla superficie. Talvolta a parecchi chilometri di distanza, il canat deve essere ripulito con una certa regolarità. Ogni 20 metri vi è un fornello di spurgo, sulla sommità di uno di questi un argano cigola tirando su una sacca di cuoio piena di pietre o di fango secondo la natura del canale. In basso, proprio al fondo, dove fa freddo anche nel cuore dell'estate più torrida, l'operaio scava la sua galleria servendosi di una zappa, di una livella di legno e di una funicella, al debole chiarore di una piccola lampada a olio ben riparata in una nicchia. Offrimmo delle sigarette all'uomo che manovrava l'argano ed egli ne sporse una al compagno che lavorava nel tunnel. Quando le squadre si danno il cambio, la nuova talpa, tra virgolette, infila il piede in un anello del cavo e in posa eretta e rigida scende nella profondità della terra. Al momento dell'installazione di un nuovo Karez, i tecnici costruiscono simultaneamente molti di questi pozzi e, grazie alla loro straordinaria abilità, le gallerie si incontrano esattamente. Tali opere, costose quanto indispensabili, sono di norma finanziate da qualche persona facoltosa che necessita d'acqua o deve sostituire un canale esaurito. Gli scavi si eseguono da novembre a maggio e sono sempre le stesse squadre a essere impiegate in questo lavoro delicato e talvolta mortalmente pericoloso. Sembra che in tempi remoti gli scavatori di Kanat fossero arabi o ghebri. Già all'inizio della nostra era Strabone menziona tali canalizzazioni sotterranee e ricordo di aver letto anche che sotto il deserto del Sahara ne esistono di tal genere chiamate foggara, risalenti a quanto sembra una civiltà oggi scomparsa. Probabilmente gli uomini, spinti dalla necessità, si sono serviti da sempre di simili mezzi di irrigazione. Decidemmo di coprire, incuranti della fatica, in una sola tappa i 500 chilometri da Sahrud a Mashhad, non offrendo il tragitto nessun luogo piacevole dove accamparsi. Del resto, con il nostro equipaggiamento potevamo evitare le soste nei borghi. Non ci mancava neppure l'acqua, trasportata in una sacca apposita che, appesa fuori dalla macchina, la manteneva fresca in virtù dell'evaporazione. Sulla sua tela umida, infatti, vi erano incrostazioni di fango causate dalla polvere della strada, ma soprattutto eravamo attratte dalla prospettiva di trovare un bagno e un comodo letto al consolato britannico di Mashhad, ben sapendo che poi per molto tempo non avremmo più avuto occasione di godere di tali piaceri. Ci adattavamo via via al paese. Senza volerlo incominciavamo già a intercalare espressioni del luogo alla nostra lingua. Erano parole usuali come uomo sì, madame, troppo caro. Un giorno Cristina raccontava: un nafar si mise a seguirmi ripetendo Bale, Kanum, non è che Iligeran, e alla fine gli ho comprato il suo portasigarette di alabastro. Dal suo precedente soggiorno a Teheran, la mia compagna ricordava ancora la Zimni East, non abbiamo bisogno, non è necessario, frase che ci fu spesso utile nei garage dove vi era sempre un meccanico pronto a smontare il nostro motore. Conoscevo una sola ingiuria, Tokhum Seg, ma essa compiva miracoli quando eravamo stanche del ricorrente Farda, domani, dato in risposta a un ordine urgente. La ripetevo continuamente, avendola sentita pronunciare con successo da un turista tedesco a Isfahan nel 1937. Costui parlava correntemente l'iraniano e poteva vantarsi di conoscerne anche le espressioni dei bassi fondi, avendolo imparato durante i suoi spostamenti nella metropolitana di Berlino. Finalmente seppi che quella formula magica significava figlio di un cane. Anche la nostra macchina assumeva un aspetto persiano. Cristina aveva fissato al radiatore alcune grosse perle turchine, di quelle che si mettono attorno al collo degli animali per proteggerli dal malocchio. Prevedendo possibili contrattempi, ora portavamo con noi due embrici in metallo da mettere sotto le ruote se la nostra pesante vettura fosse sprofondata nella sabbia o nel fango. Come ulteriore precauzione, avevo consigliato Cristina di indossare una gonna, poiché in pantaloni avrebbe continuato a essere scambiata per un uomo e gli harem afghani le sarebbero stati in tal modo preclusi. Ero d'altronde convinta che in Asia le donne trovano più facilmente aiuto in caso di difficoltà se non sono in compagnia di un uomo. Attraversando il Khorasan, si è colti da una sorta di stanchezza per quella successione ininterrotta di immense conche senza acqua, separate da colline di pietra grigia o da costoni rocciosi di terra arida. Quella provincia mi sembrava ancora più sterile e abbandonata del Turkestan russo. Nondimeno, per un istante, alla sera come all'alba, un glorioso gioco di luci trasformava questo incolore e triste scenario in un mondo di bellezza senza pari. Un mattino, oro e blu, blu e oro, diede spettacolo di sé quel giorno. Cespugli dorati si profilavano sullo sfondo di colline dal colore intenso e vellutato della prugna matura, mentre polvere e luce d'oro vibravano nell'aria azzurrina del cielo profondo. È in virtù di un cielo simile che i deserti suscitano tanta emozione. Un cielo vasto e intero, la cui estensione è la più grande che i nostri occhi possano cogliere in un solo momento. Un cielo disegnato in filigrana di nubi, impregnato di tutto l'incanto dell'essenza stessa di una regione un tempo fertile e varia. Sì, Cristina, la vita è bella. Un campo nei pressi di un villaggio era disseminato di forme simili a immense bombe dalle superfici compatte e brunite. Incuriosite, esplorammo la più vicina. Era una specie di cupola in terra essiccata che copriva una fossa profonda dove era conservato il ghiaccio raccolto durante l'inverno precedente. Grazie a uno di quegli yakchal, il nostro sciroppo d'arancio divenne fresco e delizioso, anche se era consigliabile non guardare i residui di fango depositati sul fondo del bicchiere. A Sabzewar ravvisammo la sagoma alta e un po' sgraziata di Khos Rugwirde, minareto costruito nel 1111, quando Sandiar, il sultano selgiukide, governava il Khorasan. I mattoni monocromi del monumento mi ricordarono l'imponente torre alta 52 metri che si innalzava accanto alla moschea Kalyan a Bukhara, torre chiamata il minareto della morte perché l'emiro costringeva i condannati a buttarsi nel vuoto dalla sua sommità. Ben prima di mezzogiorno il calore era padrone assoluto del nostro mondo. Ogni particella di terra emanava rifrazioni simili a fremiti d'acqua sul punto di bollire. Il deserto era una fornace ardente da cui salivano esalazioni tanto forti da costringerci a chiudere i finestrini della macchina, rimpiangendo amaramente di non possedere tendine che ci riparassero dai torridi raggi del sole. Avevamo però avuto l'accortezza di foderare il tetto di flanella rossa così da attenuare l'eccesso di temperatura. Occorreva mantenere a ogni costo la velocità di 60 km orari. A ogni rallentamento, infatti, i sobbalzi diventavano infernali poiché le ruote non si sollevavano più a sufficienza tra una gobba e l'altra della strada, sempre più simile a una lamiera ondulata. Anche la polvere costituiva un problema. Il traffico abbastanza intenso faceva sì che si alzasse continuamente dinanzi a noi un'opaca cortina di pulviscolo. Le nostre schiene, così come i sedili di pelle, erano madide di sudore e quando ci alzavamo in piedi per asciugarci al vento, rabbrividivamo di freddo. L'acqua evapora in questo clima così secco, quasi alla rapidità della benzina. Il viaggio nondimeno era più agevole di quello che avevo affrontato 2 anni prima in una corriera stracarica di gente. Allora, dopo che il veicolo aveva arrancato per 2 giorni lungo la medesima strada, arrivando al garage di Shahrud, mi ritrovai con gli abiti lacerati sul dorso, là dove avevo sfregato contro lo schienale di legno. A quel tempo si poteva ben dire che avessi una colonna vertebrale d'acciaio, dato che un dolore lombare mi costringeva a portare un busto ortopedico. Tale inconveniente, sommato al calore estivo dell'Iran, mi infastidiva notevolmente. Tanto più che campeggiando ogni giorno sul bordo della strada, dove il solito guasto ci aveva bloccato, mi era impossibile spogliarmi. Mi facevo coraggio pensando al padre di Irene, Lord Curzon, che, a quanto diceva la figlia, soffrendo di sciatica cronica, era arrivato fino al Pamir bloccato in una corazza uguale alla mia. Quel Quel viaggio in pullman era stato interessante, ma non così pittoresco come un altro a bordo di una camionetta afghana. Nessuna invocazione dalla vergata in belle volute su carta dorata ornava la corriera iraniana. Né era dipinto sulla carrozzeria un castello di Shillong affaggiato sul lago Lemano. Nessuno splendido afghano faceva fermare il veicolo per recitare le preghiere nel deserto. Nessuno strascico di turbante svolazzava dietro di noi quale una lieve sciarpa di Isadora Duncan. Non vi erano le donne velate che a stento vedevano come salire o scendere dal predellino o panni di neonato stesi sugli schienali ad asciugare. Nessun afghano sconcertato alla prima apparizione dei visi scoperti di quelle iraniane che portavano calze arrotolate su gambe un po' arcuate. Ricordo che, lasciato il garage di Mashhad, passammo davanti alla Santa Moschea e tutti i passeggeri del pullman gridarono all'unisono l'invocazione dei pellegrini ad Ali, un'esclamazione che sembrava al contempo carica di fervore e di minaccia. Il nostro automezzo si fermava soltanto se costretto da qualche guasto e, poiché ne capitavano di frequente, chi era religioso aveva molte occasioni di potersi inginocchiare e pregare. Un mattino, mentre guardavo attraverso le tendine che ci proteggevano dal sole, vidi all'improvviso un paio di tenaglie troncare il fil di ferro che le reggeva. Sarebbe servito a legare il tubo di scappamento che strascicava al suolo. Nel pomeriggio perdemmo un predellino e alla sera un cortocircuito mise i fari fuori uso. Quando un'ennesima foratura di gomme ci obbligò a un'altra sosta, l'autista ne approfittò per distendersi in un fossato e dormire. Mentre il suo giovane secondo riparava il copertone alla luce di una lampada elettrica prestatagli da un passeggero. La pelle di quel ragazzo assumeva un colore sempre più tendente al grigio topo, tanto lavorando si copriva di sudore, di polvere e di grasso. In seguito perdemmo ancora una cinghia di trasmissione che fu sostituita alla meno peggio. Nessuno fino ad allora aveva dato segni di insofferenza. Il colmo fu raggiunto soltanto quando il nostro parafango fece cadere un contadino dal suo somaro. L'autista lo fece salire sul pullman e lo portò in un can isolato mentre il pover'uomo gemeva dicendo che presto sarebbe morto. I suoi compagni pretesero che prima di ripartire venisse pagato il prezzo del sangue versato. Fra discussioni e trattative passarono 8 ore. Il can era una sorta di locanda, buia e con il soffitto a volta, sul cui pavimento in terra battuta erano distesi alcuni clienti dall'aria stanca che fumavano oppio. Impossibile ottenere la minima cosa da mangiare. Affamati, i miei compagni si incamminarono verso il vicino borgo nella speranza di potervi comprare del cibo. Quando ritornarono avevano un unico uovo, uno solo per tutti noi. All'infuori di uno studente diretto a Teheran, gli altri passeggeri ritornavano dal santo pellegrinaggio di Mashhad. Uno tanto obeso da chiedersi come riuscisse a chiudere la larga cintura che gli circondava i fianchi era commerciante di tè a Baghdad. Un altro trafficava in tappeti a Karachi. Un terzo mi aveva incuriosita con la sua bottiglia tenuta stretta tra le ginocchia lungo tutte le 5 giornate di viaggio. Conteneva senza dubbio dell'acqua benedetta proveniente dalla tomba dell'imam, perché dell'olio o dell'arak, cioè l'acquavite araba, non sarebbero stati certo portati con tanta cura e ostentazione. La maggior parte dei miei compagni aveva la testa avvolta dal tipico foulard arabo tenuto fermo da un torciglione di lana. Si chiamavano vicendevolmente haji, cioè persone che hanno già compiuto il pellegrinaggio alla Mecca. Erano dunque già stati alla Mecca. Un uomo con il viso butterato dal vaiolo era sarto a Hamadan. Il fratello, uno dei mullah di Mashhad, si era scandalizzato nel vedere quanto egli si fosse europeizzato. Era rasato quasi completamente e indossava un elegante pullover blu su una maglia a polo infilata dentro i pantaloni secondo la moda occidentale. A est di Istanbul si può dedurre la latitudine del luogo in cui ci si trova osservando i vari tipi di camice: la tunica del musulmano, la rubachka russa, la lunga jibba hindu sono tutte portate sopra i pantaloni o il dhoti, usanza che permette alla pelle di essere a contatto dell'aria. E, colpa ancora più grave, quel sarto non aveva ancora preso moglie. Il fratello sapeva che lo scià Reza, pur attaccando il clero in politica, aveva come consigliere privato un sacerdote, il quale gli aveva suggerito di rimandare la data della sua visita alla città santa di Mashhad, stimando che non fosse ancora il momento opportuno di una sua comparsa colà. Nel 1935, infatti, i soldati dello scià avevano sparato colpi di mitragliatrice sulla folla ammassata nel cortile della grande moschea, uccidendo alcune centinaia di fanatici. L'increscioso episodio era accaduto perché un mullah, cioè un prete musulmano, il cui nome significa persona istruita nella legge religiosa e incaricata di insegnarla, influente, aveva maledetto la nuova legge che obbligava a portare un cappello europeo, cosa che impediva al fedele di toccare il suolo con la fronte durante la preghiera. Ai musulmani è proibito andare con la testa scoperta. «È un'infamia», aveva esclamato il mullah. «Neppure gli inglesi hanno osato imporre ai nostri fratelli indiani una legge tanto ignominiosa. Guardate che cosa farò di questo cappello, lo ridurrò in 1000 pezzi». La collera era così salita rapidamente nel cuore dei fedeli che chiedevano di beneficiare del diritto di asilo trovandosi entro le mura della moschea, considerata un santuario inviolabile. Ma quel giorno dovettero rendersi conto che il loro mondo religioso era schiacciato dalla ragion di Stato. In seguito a tale catastrofe, numerosi mullah furono costretti a fuggire in Iraq o in Afghanistan. Da allora, il numero di pellegrini che un tempo venivano a centinaia di migliaia si è ridotto di 10 volte. Inoltre, nuovi regolamenti nel vicino Oriente concernenti il denaro hanno contribuito a rendere i viaggi ancora più difficili. A causa di quella sanguinosa repressione, dovevamo ottenere un'autorizzazione, benché miscredenti, per poter penetrare in quella cinta dove si ergeva la più bella moschea dell'Iran. Per i musulmani sciiti, Mashhad è la quarta delle città sante, mete di pellegrinaggi dopo la Mecca, Kerbela e Najaf. A differenza dei sunniti, essi non riconoscono i 3 primi successori di Maometto. In Iran, il potere apparteneva al re, figlio di Dio, in virtù della sua origine ultraterrena, investito della gloria divina, Farri Yazdan. Con il favore delle rivoluzioni politiche, l'Iran riporta nella persona dell'arabo Ali, l'erede legittimo di Maometto, escluso dal califfato, tutti gli splendori e le sacralità dell'antica regalità nazionale. Colui che un tempo era chiamato nei protocolli il re divino, figlio del cielo, e nei libri sacri il signore e la guida, signore dell'ordine del mondo e guida dell'ordine dello spirito, ora veniva designato con un termine arabo, imam, il capo, il titolo più semplice e al contempo più augusto che mai si potesse immaginare, poiché tutte le sovranità del mondo e dello spirito vi erano contenute. Rispetto ai califfi, innalzatisi grazie al clamore cieco delle masse, all'intrico e al crimine, l'Iran sostenne il diritto ereditario dell'imam Ali, infallibile santo di Dio, e alla sua morte quello dei 2 figli, Al-Hasan e Al-Husayn, e poi dei loro discendenti. Al-Husayn aveva sposato una figlia dell'ultimo re sassanide, cosicché l'imanato dell'antica Persia e dell'islamismo persiano fu suggellato nel sangue di Husayn sulle piane di Kerbela. Dei 12 imam rivelati, l'ultimo sarà il Mahdi che riapparirà con il profeta Elia al momento della seconda venuta del Cristo. L'ottavo, l'imam Reza, seppellito a Mashhad, fu un grande santo che, così pare, operò miracoli. La tradizione dice che 20.000 angeli beati volano di continuo intorno al suo santuario. Mentre mi avvicinavo di nuovo alla cupola d'oro della tomba santa di Mashhad, e questa volta Cristina era accanto a me, invidiavo lo stato d'animo del credente. Nel giorno della resurrezione, 4 santi uomini tra i più antichi, Noè, Abramo, Mosè, Gesù e 4 fra i più recenti, Maometto, Ali, Hassan e Husayn, saranno nel cielo più alto e tenderanno una corda dinanzi al trono di Dio. Coloro che sono andati in pellegrinaggio alle tombe degli imam si siederanno per terra ai piedi del trono. Ma i più vicini saranno coloro che visitarono la tomba dell'imam Reza e per questo godranno di favori speciali. Chi si reca in pellegrinaggio al santuario dell'imam Reza avrà nel giorno della resurrezione, di una durata di 70.000 anni, uno scanno proprio posto di fronte al trono di Dio e vi resterà seduto finché Dio non avrà finito i suoi conti con l'umanità. Dopodiché Dio lo prenderà con sé nel suo cielo.